il Natale. Il Natale batte alle porte e a Ciderba ce ne fosse uno che non aprisse. Per le vie si sentono suoni di campanelle, zampogne, tricche e tracche che ripetono le nenie semplici. È tutto un gioioso animarsi di pastori, un festoso propagarsi di presepi, un rutilante procacciarsi di renne. Ops, rettifico, strenne. Ma poi finalmente, dopo la nevrastenica transumanza prenatalizia, ecco finalmente, nel giorno del Nazareno, riunirsi l'italica famiglia attorno ad un panettone o ad un pandoro o a del dolciastro tortame in genere, a ritrovare il calore perduto e a raccontarsi frottole, iniquizie, stronzezze. Ops, no, non rettifico, stronzezze. Ma non solo, anche argute e salaci moraleggianti novelle, come quella di... Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Sì, bentornati a Chiedo Asilo. Devo dire un saluto da capo. Cosa buonanotte? Vabbè, sì. Ma tanto si sa, no? Dai, chi se ne frega, dai, è venerdì. Tra l'altro, è il venerdì del 23, domani appunto, è Natale. Tutti mangiano, Drago, tutti vanno a fare delle grandi cene, dei grandi pranzi. Io devo mangiare in bianco. Bianco Natale, per me vuol dire Natale passato mangiando in bianco. Ti farà bene. Allora, intanto cominciamo dall'antipasto. Antipasto in bianco. Niente, si salta. Non so, si salta proprio perché non posso mangiare la carne rossa. Poi dopo c'è il tris di primi. Questi primi in bianco, Drago, allora cominci con riso in bianco, pasta in bianco, sì, e farro in bianco. Che schifo! E questo è un tris di primi. Tris di primi. Poi, dopo i primi, ci va il sorbettino. Il sorbettino si può prendere, direi, no? Al limone. Come no? Perché è bianco. È bianco, sì. Io direi uno yogurt magro. Ecco. Dopo il tris di primi. Dopo il tris di primi. Sì, uno yogurt bianco. Con l'olio ai primi, non col burro. E senza formaggio. Perché? No, non si può mangiare latticini. L'olio è giallino, il burro è bianco. Vabbè, allora saltiamo dopo lo yogurt magro, sì, si passa al secondo di pesce. Esatto. Secondo di pesce. Buonissimo. Bianco. Un branzino, no? Pesce bianco. Sì. Non so, branzino sogliola, bianco. Sogliola. In bianco, senza niente. Un dentice. E invece poi dopo il pesce, prima di passare alla carne, ci va un altro sorbettino. No, e con un altro yogurt magro. Sì, ma poi alla fine mi sa che... Dopo, ma te aspetta, siamo ancora al secondo prima di carne. Ancora di finire, sono già in carne bagno. Bianca, ma non importa il bagno, Drago, devi subito, chi se ne frega. Scusami, è interessantissimo yogurt, questa cosa, okay. In tempi di crisi, sì, un menù di Capodanno in bianco è molto consigliabile a tutti per risparmiare. Allora, insomma, dopo il tris di primi, sì, e lo yogurtino sorbetto, sì, dopo la sogliolo al branzino. Pesce, sì. Ma branzino, non so, comunque, va che non va bene. Con un po' di olive. Ma anche, che no? Olive, bianco, insomma, olive bianche. Allora, poi dopo c'è la carne. Carne bianca, carne sappiamo bianca essere la carne pollo, di pollo, la carne di coniglio. Non mangio, quindi solo pollo. Pollo, pollo. Pollo però alla già... piastra. Ma no, la piastra in bianco, boh, lesso. Pollo lesso. Al vapore. Pollo lesso. Poi dopo ci va un altro sorbettino, un altro yogurt magro. Sì. Dopo lo yogurt magro c'è il dolce. Ah, c'è il manzo albino. Ci suggeriscono il manzo albino. Il manzo albino. È bianco. Cos'è il manzo nel albino? Senso che albino è bianco, no, fuori. Quando lo cuoci però no. Non no, lo so. Infatti la carne è rossa. Vabbè, dopo il terzo, quarto yogurt, sì, passiamo al dolce. Il dolce in bianco. Voglio dire, va bene il colore, ma i contenuti no. Cioè, per esempio, esatto, non va mai bene. L'uovo non si può. No. Allora, secondo le ricette del bambino Alberto, che in qualunque ricetta ci va un uovo, niente, neanche quello. Quindi il latte direi, non ci va. Latte, hai mangiato lo yogurt. Però lo yogurt, capisci? Potresti fare un bel fermenti dolce di... Di yogurt. O anche di Vinaville. È bianco. E ora, bambini, ricreazione! La tazzulelle, caffè... Ehi, Joris! Una sigaretta, coppa per non bere... Cioè, Joris, ciao, Albert! Allora, come va? Tutto bene? Ci vorrebbe fare una bella sigaretta, guarda! Come una sigaretta? Ma tu fumi? Fumo, bevuto il caffè, dopo il caffè... Come, neanche il caffè? Buonissimo. Ma c'è un bambino? Fa niente, bambino, il caffè. Ma perché è un'usanza vostra? Perché, sì, perché voi, voi siete meridionali. Siamo meridionali. E siete precoci, ma il caffè alla tua età. E poi la sigaretta. La sigaretta sopra è buonissima. È proprio il massimo. Wow. Dopo una bella mangiata che ti sei fatta, una bella frittata e maccheroni. Come l'hai fatta? Una bella. Ma tu, scusa, pepate cozze. Come le pepate? Oggi c'è le finocchie cotte. Ma io non vengo in mensa, a me. Tu lo sai. Tu non mangi? Non posso venire in mezzo. Non hai tu non hai buoni. Non c'hai buoni, te lo dico. Io mangio. Mia mamma tutti i giorni mi prepara una schiscetta e io vengo a scuola con la schiscetta. E cosa che vi dà? Granaglie? Cosa mangiate? Ma che granaglie? No, è la povertà, dire granaglie, no? Oggi ho mangiato basta il broccoli, mi ha messo mia mamma. Basta che il broccoli di secondo mi ha messo. Un poco di cozze con attorno un poco di patate. Come le cozze? E poi dopo un bello termos con dentro bello, un bicchiere di caffè buonissimo. Ah! Ma... Solo che mi manca la sigaretta. E lo dici a me? Io l'ho finita, dovrebbe. Vabbè, io non fumo! Se no te la offrirei. Con la sigaretta. Adesso un pacchetto, no, ti do anche l'ultima. E allora se sei così brava, fai così, comprami un pacchetto di sigarette. Come? Vabbè, ma come faccio a comprarla io? A me mica me la vendono, sono un bambino, non arrivo neanche alla cassa. Bravo, pure a me non me le vendono, Alberto. Ed è per forza. Solo che io quando le compro, le faccio comprare. Aspetta, che le fai comprare? Sì, allora che faccio? Le fai comprare da un da mio fratello, io vado da mio fratello e gli dico, dai fratello, io ti do i soldi. Vabbè, ma tu, e tu fratello quanti anni ha? Mio fratello è più grande, c'ha 34, 5, 7, 8, 9 anni. Ma quindi... Quelli ma, sono. Ma è vecchissima allora! Ma come fate? Che differenza di età avete? Ma che te ne importa di che età di differenza? Ma tanto a lui ce le danno! È vero, lo chiede a lui. E certo, questo valore. È lui che va? Sì. Allora è tutto il sotto, no? Sì. Come? Tu, i soldi io? Mio fratello è mio fratello, come sono povero io e povero pure lui. Vabbè, c'è ragione, la stessa specie, no? E quindi. Facciamo una società, tu mi dai i soldi a un'altra? Sì! Allora, qui, mettiamo che io dico facciamo società. Io metto il capitale, perché ecco. Ce l'ho. No? Perché io. Aspetta, metto il capitale. E poi dov'è? Cioè, dopo ci deve essere il conquibus, no? Tipo, tu capisci, tu latino... Andiamo... No, che vuol dire? Io investo i soldi e dopo un anno mi torna indietro qualcosa, no? No, ma tu... Cioè, l'investimento, in cosa si tratta? Io, se devo essere al corrente, no? Alberto, ma ti fidi del tuo socio, ti stai allargando, allontanando dall'idea! Sono io, il tuo socio, vabbè! Ho capito, mio socio, magari due righe, no? Che informali, tipo, questi soldi... Ma tu non ti preoccupare, noi facciamo tutto dopo. Prima bisogna fare le cose, dopo vediamo di sistemare. Ragazzi, mi stai facendo venire nervoso, già ti volevo fumare una sigaretta. E allora, questo è tanto nervoso, io che qui i soldi stai chiedendo a me, io sto sudando freddo, allora. Ho capito, senti Alberto, io ti faccio la proposta, ti faccio fumare una sigaretta, Alberto. No, la sigaretta cosa c'entra? La faccio fumare io, però devi fare così. Tu mi devi dare i soldi, io vado da mio fratello. Allora, facciamo così. Tira fuori, ti do questi 5 euro i benedetti. No, allora, 5 euro, Alberto, 5 euro non facciamo niente perché 5 euro costa... Sono sigarette, no? Sono 20 sigarette. Bravo, però noi non possiamo andare, allora dobbiamo commissionare a mio fratello. E allora mio fratello dobbiamo darci qualcosa. In che senso? Ce lo dobbiamo comprare pure a lui qualcosa. A lui, no? No, mio fratello va solo per 50 euro. Come 50 euro? 50 euro. Allora, prima di tutto cerchiamo di essere chiari. 50 euro compreso il pacchetto di sigarette o 50 euro più il pacchetto di sigarette? No, compresi. Allora, all inclusive? Sì. Allora, qui si comincia a ragionare. Già all inclusive significa che non ci sono sotterfugi. Ma vedi che c'hai tutto in testa, Alberto, hai capito? Allora, tu sei la mente. Allora, visto che io sono la mente e tu sei il braccio. Sì. Ecco, io vorrei, questi soldi che io ti do, tuo fratello... Mio fratello compra 5 pacchetti di sigarette. E come 5 pacchetti di sigarette? E chi se le fuma? E chi se le fuma? Un pacchetto lo tengo io, un pacchetto lo dà mio fratello, un altro pacchetto magari lo tengo io un'altra volta, perché tanto servono sempre, quelle finiscono, mica sono soprammobili le sigarette. E capito, allora? E dopo avanzano 2 pacchetti, e te li tieni tu, Alberto. Ma se io non fumo! Ma cosa me ne faccio dei pacchetti di sigarette? Ma me le dai a me un'altra volta, una alla volta, me le porta a scuola, me ne dai un'altra, no? Ma perché qui? È perché la società, no? E la società, tu c'è la distribuzione, si dividono i dividendi. Ma vedi che quando vuoi tu mi capisci a volo, Alberto! Ah, allora! Tu sei una mente, io ho trovato il socio giusto! Attenzione un attimo! Dimmi, Alberto! No, vabbè, allora, Ioris, facciamo così! Ascolta, allora, adesso ti do i 50 euro! Bravo! No, l'all inclusive, no? Ma tuo fratello? Mio fratello, tu quando mi dai 50 euro domani, io glielo do a mio fratello, quindi domani non ci vediamo, Alberto! Chi? domani non ci vediamo. Se ti chiedono dov'è, non l'hai visto. Ma chi? Noi due? Sì, io e te domani non ci vediamo. Ci do 50 euro a mio fratello. Mio fratello va a comprare le sigarette, me le ridà. Io il giorno dopo vengo a scuola, quindi dopo domani ci vediamo. E ti lascio i due pacchetti tuoi. Ma se lo fumo, t'ho detto! Sì, ma tu le sigarette te le puoi pure mettere dentro a cassettino e te le fumi pure tra 3-4 anni. Ma se io non voglio fumare! Quello è un investimento, Alberto, non c'hai la meta ogni tanto. Ma che investimento è? Quello è investimento sulla morte, comincia a fumare! Ma allora, Alberto, io ho pensato a questo, tu puoi fare così, tu non le fumi, ma te le porti dentro al taschino, le fai vedere e basta! Perché? Le fai solo vedere così che le ragazze dicono quando si è fatto grande Alberto. Hai capito? Ti metti il pacchetto? Te lo metti qua e lo fai solo vedere. Allora le ragazze dicono Alberto c'ha le sigarette, si è fatto grande, vuol dire che e fuma. E quindi tutto va bene. Ah, perché se no sanno che fumo. Sei più grande. Tu fumare ti fa anche dimagrire un pochino. Sì, ma hai bisogno. E magari non a questa, ma alla prossima gita puoi venire con noi. E sono sicuro che verrai con la ragazza. Senti, una roba la devo dire. Però non ti butta la testa. 50 euro li ho buttati via per cose peggiori. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Che vuol dire? Oh, abete di Natale, come sono verdi le tue foglie. Che in realtà foglie non ne ha. Esatto, perché sono aghi. Ma gli aghi sono foglie. Ah sì? E oltretutto quest'anno per la prima volta ci saranno più abeti finti nelle case del mondo che non abeti veri. È stato fatto il sorpasso degli abeti finti. Vabbè, comunque gli aghi restano verdi, sì, che siano veri o finti restano verdi. E non cadono. Buon Natale da Gaetano K, da Marco Drago, da Carmelo Lauricella, da Guido Scotti, da Guido Bertolotti, finiscono tutti i nomi. Alberto Caserini, Otti, Tommaso Varvello, Daniel Plenz, Laura Fagin, vabbè, insomma, tutta una combricola. Tanti auguri, allena. Domani è la vigilia, fate i bravi. Ma c'è la crisi.